Incanta, il gioco ieri della strada narrecanta. Occhi e menti chiusi se rimani nella banda. Parola santa, fa nulla tutti manda. Un salse sole che tramanda. Incanta, il gioco ieri della strada narrecanta. Occhi e menti chiusi se rimani nella banda. Parola santa, fa nulla tutti manda. Un salse sole che tramanda. Progettato nei sogni, borghi dove trama la vita e roba fanno i morti. Vostri ricordi, versi persi sulla strada sciolti. Auto passano, suoni suoni, imperativo Mac Money. Police e palazzoni, emo città, freestyle, plaza musica. Alza, alza, alza il volume a Joe Sagan. Strade contornate da troie e magnacce, bamba, slip, slip. Incanto strade con il flow sopra i beats. Immagini, crimini, foto di amici nelle indagini. Grammi di shit, rispetta li voglio nei giardini. Gallery, gallery, l'uomo dei spiccioli tra i vicoli e fuma roba agli occhi di un bambino. Vede gancia, plancia, a.k.a. Jack Spino. Si rilancia. Sì, sì. Incanta, il giocoliere della strada narrecanta. Occhi e menti chiusi se rimani nella banda. Parola santa, fanculo tutti manda. Usanze storie che tramanda. Incanta, il giocoliere della strada narrecanta. Occhi e menti chiusi se rimani nella banda. Parola santa, fanculo tutti manda. Usanze storie che tramanda. Partito singolo, affronto singoli volti. Dai viale Vespucci fino a sotto i portici. I conoscenti su di me, gran pronostici. Ma sono ancora qua. Con nuove amicizie sulle spalle. Locale 4C che fanno schifo e pompano Bob Marley. I Rackham al car, show them in the kick of car. People sell them soul for a slice of bread. Non penso di ricevere ma di vivere. Di scrivere per ciò che mi fa muovere e sorridere. Quando ragionare è inutile. Non ho avuto calci in culo per diventare abile. Per conoscere le mie capacità non venderle. Per ridere se vieni davanti per dimostrare. Infine non ha niente originale e particolare. Non ti resta che farti un esame di coscienza e pensare. Ma cosa è meglio fare? Agire o parlare? Incanta, il giocoliere della strada narrecanta. Occhi e menti chiusi se rimani nella banda. Parola santa, fanculo a tutti manda. Usanze storie che tramanda. Incanta, il giocoliere della strada narrecanta. Occhi e menti chiusi se rimani nella banda. Parola santa, fanculo a tutti manda. Usanze storie che tramanda.